ciu. Ti ho salutato ma non eri tu. Salendo in piedi sulle sedie, sui tavoli, dai piani alti dei grattacieli e dai pinacoli, camminando sugli alti piani coi binocoli, sento gli occhi troppo piccoli. Ma una luce si accenderà nel buio più cocciuto, sotto i raggi di un ombrello, anche se non ha piovuto. Sento un piede che scivola come qualcosa che se ne va. Tutta la terra finisce in mare, tutta la terra finisce in mare. Sulle scale, sugli alberi, dai palcoscenici dei teatri e dai patiboli, sotto le ali dei deltaplani come diavoli, il mondo sembra immobile. Ma una luce si accenderà nel buio più cocciuto, anche se non ha piovuto. Sento un piede che scivola come qualcosa che se ne va. Tutta la terra finisce in mare, tutta la terra finisce in mare e ci porta via. Finisce in mare.